TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Riprende il processo per la morte del volontario di protezione civile di Preone, nuova manifestazione di solidarietà dei colleghi al sindaco, imputato assieme al coordinatore perché considerato come un datore di lavoro. Caso Resinovic, presidio davanti al Tribunale di Trieste per protestare contro le lentezze della giustizia. Dopo quasi 4 anni dalla scomparsa della donna, ancora non c'è alcuna certezza. 2 indagati per l'omicidio avvenuto al confine tra Gorizia e Nova Gorizia a gennaio del 2022 e un accoltellamento maturato nell'ambito dello spaccio di stupefacenti. Da oggi il pronto soccorso di Pordenone si sposta nel nuovo ospedale, attivi 6 ambulatori, una sala terapie, una sala urgenza e un'area per i casi meno gravi. Agricoltura al centro dei lavori del Consiglio regionale, impegnato nella discussione della legge di stabilità. Continua il confronto maggioranza-opposizione su una legge di spesa che vale in tutto 6 miliardi e mezzo. Solidarietà con l'Ucraina, continua a Trieste la raccolta di beni di prima necessità a favore delle zone più colpite dall'aggressione russa. L'orso venuto dai ghiacci, l'incredibile storia del plantigrado oggi conservato al Museo di Storia Naturale di Trieste, ci arrivò grazie ad una delle spedizioni polari della Marina Austro-Ungarica dopo romanzesche vicende. Buongiorno da Andrea Vardanega e Maria Spezia, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio regionale. Sono le 12:31 minuti e 41 secondi in queste istanze. Oggi una nuova udienza dunque nel processo per la morte di Giuseppe De Paoli, il volontario di protezione civile travolto da un albero mentre interveniva in un'area colpita da maltempo il 29 luglio del 2023. Imputati sono il sindaco di Preone Andrea Martinis e il coordinatore della protezione civile comunale Renato Valent, chiamati in causa ai sensi della normativa sulla sicurezza perché considerati alla stregua di normali datori di lavoro, un'equiparazione che non sarà più possibile quando entrerà in vigore il testo di legge approvato giusto ieri in prima lettura dal Senato, che esclude responsabilità penali in caso di incidente per i quadri della protezione civile, sindaci compresi. Il servizio. Era già in calendario da tempo, ma la nuova udienza del processo per la morte del volontario della protezione civile Giuseppe De Paoli, che vede indagati il sindaco di Preone e il locale coordinatore dei volontari, arriva all'indomani dell'approvazione da parte di uno dei rami del Parlamento della norma che potrebbe in futuro evitare procedimenti penali come questo per omicidio colposo a carico di primi cittadini rappresentanti del volontariato. De Paoli fu travolto da una ceppaia durante un'attività di pulizia di una strada forestale nel luglio 2023. In solidarietà agli imputati, Martinis e Valent, è scattato il blocco dell'attività di protezione civile da parte di molti comuni. I due sono accusati di non aver valutato i rischi dell'attività alla stregua di datori di lavoro. Oggi in Tribunale Udine il cuore dell'udienza istruttoria, sentita l'azienda sanitaria, funzionari comunali, consulenti esperti di lavori boschivi e di normative che regolano il lavoro della protezione civile. Poche ore prima a Roma il primo via libera del Senato all'emendamento, concertato in conferenza delle regioni a firma Dreosto, in cui si specifica che il rapporto di volontariato non abbia la natura tipica di quello di lavoro ed eventuali violazioni possono essere sanzionate solamente dal punto di vista amministrativo, non penale. Si applicherebbe anche a volontari di Croce Rossa, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco e sindaci naturalmente. Secondo Alessandro Franco, avvocato dell'imputato Renato Valent, se vi saranno disposizioni di natura penalistica più favorevoli per i principi generali del nostro ordinamento, saranno applicabili retroattivamente agli imputati. Un primo intervento normativo nel 2023 si prestava infatti a interpretazioni più o meno estensive. In attesa dell'approvazione definitiva della Camera, attesa a fine gennaio, da parte dei sindaci della Carnia e della zona collinare, anche oggi presenti in aula, il ringraziamento al presidente Federica, all'assessore Riccardi e ai deputati friulani. Dice Michele Benedetti, sindaco di Ampezzo, che sicuramente è un buon punto di partenza per far sì che la protezione civile abbia quel futuro che tutti noi auspicavamo dall'inizio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Hanno partecipato i parenti, come la cugina Silvia Radin, ma anche amici e semplici cittadini al presidio organizzato davanti al Tribunale di Trieste per protestare contro un'indagine che a quasi 4 anni dalla scomparsa di Liliana Resinovic nel gennaio 2022 non ha ancora fornito un punto fermo su quanto avvenuto. Da parte della procura, l'ultimo atto noto risale allo scorso aprile, con l'iscrizione nel registro degli indagati del marito della donna, Sebastiano Visentin, e all'incidente probatorio per acquisire la testimonianza di Claudio Sterpin, l'amico di Liliana, avvenuto in tribunale nel giugno di quest'anno. Sterpin oggi ha parlato di una lentezza ingiustificabile da parte della giustizia, ricordando anche i tempi lunghi della richiesta di archiviazione per suicidio avanzata dopo un anno di indagini. Sterpin ha poi deprecato il continuo chiacchiericcio di persone che di punto in bianco rivelano particolari poco significativi sul passato, a suo avviso appartenenti a una regia orchestrata per creare confusione. Le polizie di Italia e Slovenia ritengono di aver individuato i due responsabili dell'omicidio di un 26enne avvenuto il 10 gennaio del 2022 in un'area verde al confine tra Gorizia e Nova Gorizia. Il cadavere si trovava a pochi metri oltre il confine in territorio sloveno, con numerose ferite di arma da taglio. Da subito le indagini si erano indirizzate nell'ambito del traffico di stupefacenti. Era stata creata una squadra investigativa con uomini di entrambe le polizie, con il supporto di Eurojust e il coordinamento delle magistrature di entrambi gli stati. Le indagini hanno permesso di concentrare l'attenzione su due sospettati italiani, all'epoca minorenni e incensurati. Sono seguite altre investigazioni, comprese analisi di dati e tracce biologiche e perquisizioni. Un importante contributo è arrivato dalle immagini degli impianti di videosorveglianza. Nei giorni scorsi i due sono stati nuovamente interrogati ed è stato loro notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 100 grammi di cocaina sono costati l'arresto a due persone intercettate dalla Guardia di Finanza a San Giorgio di Nogaro. Gli uomini in servizio di controllo del territorio hanno notato una vettura di grossa cilindrata che, alla vista di una pattuglia della polizia locale della comunità Riviera Friulana, ha cambiato in modo brusco e pericoloso strada per evitare il controllo. È scattato un inseguimento da parte di entrambe le pattuglie e l'auto è stata bloccata poco fuori dal centro. Le due persone a bordo non hanno spiegato in modo convincente il loro comportamento e quindi è scattato l'intervento del cane antidroga. L'animale ha individuato rapidamente addosso ad uno dei fermati due sacchetti di cellophane con dentro in tutto un netto di polvere bianca, una quantità in base alla quale i finanzieri hanno ritenuto evidente la finalità della detenzione al fine dello spaccio. I due cittadini italiani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere a Udine. La droga rinvenuta e l'auto su cui viaggiavano i due arrestati sono stati sequestrati. Ancora cronaca, una denuncia a Cividale del Friuli da parte dei carabinieri per un giovane protagonista di un curioso e movimentato episodio. L'uomo si era presentato al comando e, parlando con il militare in servizio, aveva espresso un disagio dovuto alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Mentre si allontanava, poi esploso un colpo di pistola a salve verso il cielo e poi è scappato, tra l'altro danneggiando lo specchietto di un'auto in sosta. Sono scattate le ricerche. Poco dopo, il giovane, un ventenne del posto, già noto alle forze di polizia, è stato rintracciato alla guida di una bicicletta presumibilmente rubata nel territorio di Moimacco. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di ritrovare un caricatore e diverse munizioni a salve, 140 grammi di marijuana e un bilancino e altro materiale utile a confezionare la droga. La denuncia è scattata per minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento, accensioni ed esplosioni pericolose, ma anche per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da stamattina nuova tranche del trasferimento di reparti dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone. Quello di oggi è particolarmente importante perché cambia sede la struttura di medicina d'urgenza, compreso il posto di pronto soccorso. Spazi ampi e ordinati, dotazione all'avanguardia e logistica più efficiente che permetteranno, è l'auspicio, migliori cure ai pazienti e un miglior ambiente di lavoro per il personale. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone è operativo da stamattina, ha 6 ambulatori, una sala terapia con 12 posti letto monitorizzati, una sala urgenza, un'area per i codici minori e la parte traumatologica e un innovativo triage, come spiega la direttrice del pronto soccorso medicina d'urgenza, Laura De Santi. Cominceremo questa presa in carico anticipata, dove il paziente, prima ancora di essere visto dal medico, con dei protocolli condivisi anche a livello regionale, a questo paziente verranno fatti l'elettrocardiogramma o una particolare set di esami ematochimici, e questo volto a far sì di accorciare i tempi di attesa e di processo per il paziente. I 12 posti letto di osservazione breve non sono ancora operativi per mancanza di personale infermieristico, pure il personale medico carente resta il tallone d'Achille del reparto. Il trasloco è avvenuto tuttavia senza problemi anche per i casi più delicati. Dalla primaria un sentito ringraziamento ai dipendenti. Nella stessa giornata sono trasferite la medicina d'urgenza al primo piano e la radiologia d'urgenza, dove il personale medico qui è affidato a un appalto, al piano terra. Questa collegata con accesso diretto alla sala urgenza del pronto soccorso è dotata di due innovative tache e di una speciale attrezzatura robotica telecomandata per le radiografie. Mauro Biscosi è il primario di radiologia interventistica ed urgenza. Questo ci permetterà di raggiungere delle diagnosi più veloci, ci auguriamo per il bene dei pazienti più efficaci, proprio perché poi attraverso la rete che c'è con gli altri ospedali hub della regione, Udine o Trieste, possono essere poi indirizzati in tempi brevissimi per il trattamento, mi riferisco all'ictus, mi riferisco a dissezioni aortiche e a quant'altro. L'accesso al nuovo pronto soccorso è da Vial Rotto, pochi i parcheggi interni. Il pronto soccorso pediatrico resta invece nel vecchio ospedale fino al trasferimento del Dipartimento Materno-Infantile previsto tra giugno e luglio 2026. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È ripreso stamattina in Consiglio regionale l'esame della legge di stabilità dopo aver completato l'esame dell'articolo 2 che assegna risorse per 200 milioni a imprese e turismo con la maggioranza compattamente favorevole e il voto contrario delle opposizioni. Oggi tocca all'articolo 3 che si occupa di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e della montagna. La dotazione di partenza su questo capitolo è di 115 milioni. La finanziaria chiude il capitolo riservato all'agricoltura e alla montagna destinando oltre 121 milioni al comparto. Garantite storia, identità ed economia del territorio, sottolinea l'assessore Zannier. Risorse che consentiranno di sostenere la transizione ecologica delle aziende, promuovere la valorizzazione dei prodotti locali, rafforzare le reti logistiche nelle aree rurali e montane e garantire nuove opportunità per le comunità che in esse vivono, conclude Zannier. 23 milioni e mezzo di euro sono destinati al fondo di rotazione in agricoltura, mentre 5 milioni e 200 mila euro vanno alla produzione agricola nel suo complesso. Legge di stabilità che continua la sua discussione in aula con il capitolo dedicato all'ambiente, ma è una finanziaria che non incide sulle politiche demografiche o sulla tutela delle persone più fragili, secondo Rosaria Capozzi, 5 Stelle. È una manovra importante che stona con la crescita che purtroppo è ancora rallentata. Se paragoniamo la nostra regione con le altre ci rendiamo conto che appunto è una crescita contratta, visto che la nostra regione viene posizionata al 18° posto. Nel pomeriggio si aprirà la discussione sulle infrastrutture. Un emendamento riguarderà la sicurezza stradale. Maddalena Spagnolo, Lega, sottolinea la percentuale di morti sulle strade pressoché stabile rispetto al 2024 e la necessità di fare prevenzione. Abbiamo stanziato 200.000 euro che vogliono stimolare progetti tramite le associazioni di volontariato che si occupano di questo tema e presso le scuole superiori per affrontare il tema e puntare sulla prevenzione. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E tra poco, nella pausa dei lavori d'aula, il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, riceverà i rappresentanti del comitato di Tolmezzo dell'Associazione delle Donne Operate al Seno, ANDOS, per consegnare una petizione che ha per oggetto la carne all'Alto Friuli per la chirurgia senologica a Tolmezzo, che ha raccolto migliaia di sottoscrizioni di cittadini. La parentesi meteorologica, il cielo da sereno a poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 11, Trieste 11 gradi, Udine 10,5, Gorizia e Pordenone 9 gradi e mezzo, in montagna Forni di Sopra 10, Piancavallo 9, Tolmezzo 6, Tarvisio 3, Sappada 2, sullo Zoncolan 4 gradi e sull'Ussari 2 gradi e mezzo, sia a Grado sia a Lignano abbiamo 9 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi pomeriggio: cielo da poco nuvolosa variabile con inversione termica, specie a fondovalle in pianura, dove saranno possibili anche foschie o nebbie. Nelle zone orientali sul Carso, possibile borino, specie in serata. Per domani cielo poco nuvoloso con inversione termica, marcata nelle ore notturne, al mattino, specie a fondovalle in pianura. In bassa pianura, possibili foschie o nebbie notturne. Nelle zone orientali sul Carso, soffierà borino, specie al mattino e in serata. Ammonta a 5 milioni di euro l'accordo tra la Regione e il Comune di Savogna di Sonzo per la bonifica della discarica di Malnice, a ridosso del Vipacco, in cui sono stati stipati migliaia di metri cubi di materiali per lo più plastici, classificati come pericolosi, in gran parte da automobili abbandonate dall'azienda appaltatrice del servizio di recupero e triturazione, in seguito alla dichiarazione di fallimento attività del 97. Da allora il materiale è rimasto in loco, nonostante gli esposti presentati per ripulire l'area e la richiesta di preventivi per la bonifica da parte dell'amministrazione locale. La cifra stanziata prevede 150.000 euro per la progettazione, oltre 3 milioni per lo smaltimento e 1.700.000 euro per la riqualificazione del terreno. Si concluderà oggi alle 16 al Liceo Carducci Dante di Trieste la raccolta di beni alimentari e per l'igiene destinati alle zone dell'Ucraina più colpite dalla guerra nell'ambito del progetto Ponti Amici. L'intervista a Lorenzo De Vecchi, il docente che la coordina. L'iniziativa è nata subito dopo l'inizio della guerra, quindi 3 anni e mezzo fa abbiamo fatto la prima raccolta, perché un mio caro amico che si chiama Gabriele Lagonigro e io avevamo organizzato una scuola di cultura italiana a Kharkiv, che è una città oggi molto colpita, e dopo questa esperienza, quando è cominciata la guerra, quell'attività è diventata un'attività di volontariato per aiutare un posto a noi caro, e un gruppo di volontari triestini ha cominciato a organizzare una serie di viaggi in Ucraina, questo sarà credo il 30° che verrà fatto, per portare aiuti ai civili rimasti in Ucraina e agli animali. E la prima raccolta fu fatta appunto 3 anni e mezzo fa, fu una raccolta molto fortunata, questo credo che sia la quarta da quando è cominciata la guerra, è sempre andata bene perché nel momento in cui si chiede qualcosa alla cittadinanza e poi si portano le prove del fatto che i prodotti e i doni vengono effettivamente portati sul posto, la gente è felice di fare beneficenza, altrimenti tante volte non si sa dove i prodotti vanno a finire. Per cui è un'iniziativa che facciamo per il fatto che io nella mia scuola, se posso, do garanzia del fatto che questi prodotti arrivano effettivamente a destinazione, cosa che noi documentiamo poi con fotografie e video. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha parlato di un 2025 complesso ma comunque ricco di risultati il presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, nel corso della cena di Natale in cui sono state premiate 11 aziende del territorio che hanno abbinato crescita economica e miglioramento della vita delle persone. All'evento hanno partecipato i genitori di Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Per l'occasione è stato consegnato l'assegno destinato alla prima edizione del concorso di idee Safety by Technology, che coinvolge studenti di istituti superiori per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative contro gli infortuni e promuovere la salute nei luoghi di lavoro. Nell'ambito della giornata internazionale della montagna sono stati presentati a Udine i risultati del progetto InnovaAlp, ricerca per fare il punto sullo stato di salute dell'ambiente alpino e dell'economia locale e sulle sue prospettive di sviluppo. Montagne produttive è stato il filo conduttore di InnovaAlp, una ricerca a 360 gradi da parte della cooperativa Cramars di Moggio Udinese durante il biennio 2024-2025, dove i dati generali testimoniano la dimensione produttiva della montagna in Italia nonostante i fenomeni di regressione demografica. Il 12,5% della ricchezza del nostro paese è infatti generata dalle aree montane, con un più 30% di incremento del PIL tra il 2011 e il 2023. L'export vale 31 miliardi di euro con una crescita dell'occupazione del 4% e ci sono 9,2 imprese ogni 100 abitanti. Elementi che testimoniano come InnovaAlp sia diventato un laboratorio permanente della montagna che analizza dalle Alpi agli Appennini un ecosistema economico e sociale complesso. Annalisa Bonfiglioli, project manager di InnovaAlp. Una realtà che va al di là della montagna stereotipata, che viene sempre interpretata come un parco giochi tematico o come una fotografia fuori dal tempo. È emerso quindi un tessuto economico, centri strategici nell'intera montagna italiana, dalle Alpi agli Appennini, che producono innovazione, che producono reddito. Un cantiere aperto anche nel prossimo biennio 2026-2027 con una nuova ricerca dedicata alla montagna e alle generazioni che ci abitano. Stefania Marcoccio, presidente della cooperativa Cramars. Sarà l'occasione di confronti e di un'apertura culturale ed economica al nuovo modo di vivere la montagna. Iniziativa che ha coinvolto concretamente il territorio di Moggio Udinese con la Summer School residenziale lo scorso luglio. Il progetto dell'ecomuseo diffuso Vie della Carta, un presidio multifunzionale e la riattivazione dell'ex stazione ferroviaria come hub per i cicloturisti. Martina Gallizia, sindaco di Moggio Udinese. Noi abbiamo iniziato a lavorare già al tema della carta, quindi alla creazione di questo festival della carta che potrebbe essere un appuntamento annuale e poi svilupparsi in quello che sarà l'ecomuseo diffuso della carta. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. È in piena missione la nave rompighiaccio italiana Laura Bassi dell'OGS di Trieste, che è giunta al Polo Sud nell'ambito della 41esima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche Scientifiche in Antartide. Dal porto di Trieste ha quasi circumnavigato il mondo, Gibilterra, l'Atlantico, Panama, il Pacifico, fino al Polo Sud. La Laura Bassi, dell'OGS, unica nave rompighiaccio del nostro paese per la ricerca oceanografica in grado di operare in mari polari, è ora presso la base italiana Mario Zucchelli, davanti al Mare di Ross. È la 41esima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche Scientifiche in Antartide. Il capo spedizione Riccardo Codiglia. Il continente antartico è un enorme laboratorio naturale, è un enorme laboratorio naturale che ci serve per capire come funziona il mondo, come funziona il clima del nostro mondo in questo periodo. Inoltre è anche uno scrigno di informazioni importantissime del passato che ci raccontano come è stato in passato. Ricordiamoci che dall'Antartide sono nati tutti i continenti fondamentalmente. L'Italia è dall'87 che fa parte del Trattato Antartico e ha voce in capitolo proprio svolgendo di fatto delle missioni scientifiche e avendo delle basi permanenti qui in Antartide. Come è andato il viaggio? Chiediamo al comandante della Laura Bassi, Franco Sedmak. La prima parte del viaggio è andata benissimo, abbiamo trovato delle condizioni veramente eccezionali, veramente rare, io direi quasi insolite per i mari che abbiamo attraversato. Poi però ci siamo trovati di fronte a tanto ghiaccio quest'anno, ghiaccio importante, ghiaccio che ci ha messo anche a volte a dura prova, che però siamo riusciti a gestire. La vita a bordo sa essere dura tra operazioni logistiche e test scientifici a turni 24 ore al giorno, unico vero comfort, e non potrebbe essere altrimenti su una nave italiana, il vitto di ottima qualità, confessa Codiglia. La cucina è spettacolare, i piatti sono quasi tutti italiani direi, perché abbiamo un cuoco sorrentino e un cuoco siciliano che cucinano da Dio, e infatti il rischio qui è di ingrassare, non tanto di mangiare male. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sempre in tema di ghiacci eterni, una storia romanzesca che lega Trieste al Polo Nord. Al Museo di Scienze Naturali è custodito un orso polare imbalsamato. E la vicenda di questo plantigrado si lega alle esplorazioni della zona artica portate avanti dalla Regia Imperial Marina Austro-Ungarica, ovviamente con una barca costruita in città. Prima della nave Laura Bassi ci fu un'altra imbarcazione legata a Trieste e alle esplorazioni delle regioni polari, la nave Tegetov, un veliero con motore a vapore prodotto a Trieste con 24 uomini di equipaggio, la maggior parte proveniente da Istria, Quarnero, Dalmazia e appunto Trieste. Lingua franca a bordo, l'istroveneto. Una spedizione voluta dall'Austro-Ungheria per scoprire il passaggio a nord-est guidata da Karl Weyprecht. Durò 2 anni, dal 1872 al 1874, tra 1000 peripezie. Durante l'impresa fu scoperta la terra di Francesco Giuseppe. Dopo 2 inverni artici l'equipaggio abbandonò la nave e rientrò in salvo con slitte e scialuppe. La spedizione fu fondamentale per la scoperta geografica dell'Artico e per la ricerca scientifica polare. Tra i reperti portarono sul continente un orso polare esposto al Museo di Storia Naturale di Trieste. Deborah Arabulla, conservatrice e paleontologa. I reperti antichi in realtà sono quelli che si conservano meglio. Sembra incredibile, ma non lo è, perché allora si usavano sostanze, per noi oggi cancerogene, troppo velenose, per esempio delle pomate a base arsenicale. Tra i protagonisti più famosi del museo c'è il dinosauro Antonio, ritrovato a pochi chilometri da Trieste. Paleontologia e archeologia saranno protagoniste per tutto il fine settimana. Parte oggi la rassegna Paleo Movies Film Fest. Il festival dedicato alla paleontologia, ma soprattutto all'archeologia, e quest'anno avremo un taglio particolare sullo sciamanesimo. Avremo Antonio Paolillo, un grande esperto, il direttore delle campagne di scavo per la Fondazione Ligabue di Venezia, oltre 40 anni di viaggi in Bolivia, nelle terre andine, e parlerà dello sciamanesimo oggi, e le radici dello sciamanesimo e di che cosa esiste, che cosa c'è ancora oggi da noi nella nostra regione che può ricordarci questi antichi sciamani. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora un paio di appuntamenti prima di chiudere. Focus sulla regione dello Swat in Pakistan, dedicato dalla Società Alpina delle Giulie, dall'Associazione 30 Ottobre e dalla Società Alpina Slovena di Trieste alla Giornata Internazionale della Montagna, alle 19 in Sala Luttazzi, al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. E le migrazioni climatiche sono al centro dell'incontro. Brutto tempo, migrazioni e climate change. Partecipano Roberto Altin dell'Università di Trieste, Giuseppe Grimaldi, Mara Rumiz di Emergency e l'architetto Paola Fortuna, Alborarium di Opicina alle 17.30. E alle 12.55 chiudiamo questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta da Maria Spezia e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotto in studio. In redazione ha collaborato Zeno Duban, la parte tecnica è stata assicurata da Walter Vidonis e Mauro Cumine. L'informazione radiofonica regionale torna alle 15, ma il flusso delle notizie prosegue non stop sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili Instagram, Facebook e X, TGR Rai FVG. E vi ricordiamo anche l'edizione delle 14 del nostro telegiornale in onda sulla terza rete televisiva della Rai. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.